24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Chiude il giornale inglese News of the World, travolto dallo scandalo delle intercettazioni illegali. La BCE alza i tassi all'1,5% e le borse accelerano. Ieri sera la prima a Londra dell'ultimo film di Harry Potter, per la prima volta red carpet in diretta mondiale sul web. Bentrovati da Roberta Pellegatta ad un nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano quanto succede in Gran Bretagna a causa dello scandalo intercettazioni. Potrebbe essere un altro Watergate. La domanda comincia a circolare a Londra mentre lo scandalo delle intercettazioni illecite dei tabloid si ingigantisce. Al centro della vicenda il giornale domenicale da 3 milioni di copie di proprietà del magnate dell'editoria Rupert Murdoch, News of the World, sospettato di avere ordinato intercettazioni su attori, calciatori, reali, VIP della politica e dello spettacolo. Vengono dati per imminenti una mezza dozzina di arresti di dirigenti e giornalisti del tabloid e la risposta dell'editore è arrivata a sorpresa. Il giornale chiude i battenti, ha annunciato il figlio del magnate James Murdoch. Domenica sarà in edicola l'ultimo numero. Decisione non sufficiente comunque a sedare le polemiche sul ricorso allo strumento investigativo ritenuto illegale, anche perché questa vicenda lambisce persino il primo ministro David Cameron. Fu lui a volere al suo fianco, come portavoce e direttore delle strategie di comunicazione, Andrew Coulson, l'ex vice direttore del News of the World, proprio l'uomo sospettato di avere avallato quelle intrusioni nelle conversazioni private di VIP, attori e calciatori. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E il primo ministro britannico David Cameron ha reagito all'annuncio della chiusura di News of the World, impegnandosi ad aprire un'inchiesta rigorosa perché quanto è successo non si ripeta. I responsabili dovranno andare davanti alla giustizia, ha detto un portavoce di Downing Street. Voltiamo pagina, nuovo aumento ai tassi di interesse nell'area euro. La Banca Centrale Europea ha aumentato nuovamente il costo del denaro per la seconda volta quest'anno. Il tasso di riferimento nella zona euro è ormai all'1,50%. L'obiettivo del Consiglio direttivo è di contrastare le pressioni inflazionistiche ed evitare che la ripresa economica possa provocare nuovi rialzi dei prezzi in un contesto nel quale l'economia continua a registrare abbondanti livelli di liquidità. La scelta della BCE può apparire sorprendente, tenuto conto della crisi debitoria in alcuni paesi della zona euro. Eppure il presidente Jean-Claude Trichet ha spiegato che mantenere sotto controllo le aspettative di inflazione aiuta anche gli stati membri in difficoltà. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. E il rialzo dei tassi della BCE non ha frenato il rimbalzo delle piazze europee rispetto al calo della vigilia. I listini continentali, infatti, a parte Milano, Madrid e Atene, hanno retto la decisione della Banca Centrale Europea mantenendosi in territorio positivo. Francoforte ha guadagnato lo 0,54%, Parigi ha segnato un più 0,6% e Londra ha chiuso a più 0,92%. Segno in meno invece a Milano, con il FTSE All Share che ha perso lo 0,11% e il FTSE MIB che è calato dello 0,24%. Titoli delle banche a due velocità a Piazza Affari all'indomani del taglio del rating portoghese deciso dall'agenzia Moody's. I big come Unicredit e Intesa San Paolo hanno continuato a perdere terreno, rispettivamente il 4,2% e il 2,6%, mentre la Banca Popolare di Milano ha guadagnato l'1,4%. Al di fuori del comparto, maglia rosa di seduta è stata Tenaris, più 3,5%, che ha beneficiato del rincaro del petrolio insieme a tutti i titoli legati al greggio. Dopo la recente debolezza ha chiuso in rialzo Atlantia, più 0,7%, in questi giorni sotto i riflettori per le conseguenze della manovra economica. Nel dettaglio il titolo è passato in territorio positivo in seguito all'annuncio di un emendamento che modificherà le norme che al momento comportano aggravi fiscali per le concessionarie autostradali. Paolo Paronetto da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore. I body scanner devono garantire salute, dignità e privacy dei cittadini. In questo senso si è pronunciato il Parlamento di Strasburgo sui nuovi controlli agli aeroporti per aumentare la sicurezza che saranno introdotti nel 2013. I parlamentari precisano che occorre vietare l'uso dei raggi X perché nocivi alla salute e aggiungono che per rispetto della privacy l'immagine del corpo nudo non deve mai essere prodotta. Si chiede inoltre una tutela particolare per i passeggeri anziani, i bambini e le donne incinte. In base alle richieste del Parlamento, ora la parola passa al gruppo di lavoro istituito dalla Commissione che si dovrà pronunciare alla fine dell'estate. Adesso la cronaca. In Olanda è crollato il tetto di uno stadio con drammatiche conseguenze. Un morto e 14 feriti, di cui due in modo grave. Questo è il bilancio dell'incidente avvenuto poco prima di mezzogiorno allo stadio di Enschede, in Olanda. Inizialmente si era parlato di due morti. I testimoni riferiscono di un enorme boato avvertito come un terremoto. Subito dopo, la parte del tetto dietro a una delle due porte è crollata, costringendo le squadre di soccorso a scavare per liberare gli operai rimasti sotto le macerie. Nello stadio, che ospita la squadra del Twente, è infatti in corso una ristrutturazione. E anche se le cause del crollo restano ancora da chiarire, si parla di due travi di supporto che si sarebbero spezzate nell'area in cui si stava costruendo il secondo anello. Giacomo Segantini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il commissario europeo ai trasporti, Siim Kallas, ha detto a Bruxelles di aspettarsi che una parte dei fondi comunitari per la TAV Torino-Lione verrà tagliata a causa dei ritardi nella realizzazione del progetto, che non rendono possibile l'utilizzazione dei finanziamenti entro il 2015. Un gruppo di chirurghi dell'Istituto Karolinska di Stoccolma ha effettuato il primo trapianto al mondo di trachea totalmente artificiale. Lo ha annunciato il coordinatore dell'intervento, il professor Paolo Macchiarini, uno dei maggiori esperti nel settore che ora lavora all'estero. L'organo, ha spiegato il chirurgo italiano, è stato interamente ricostruito in laboratorio utilizzando materiali frutto di nanotecnologie e cellule staminali. Il trapianto è stato effettuato un mese fa e il paziente, un uomo di 36 anni affetto da un tumore maligno della trachea, è in buone condizioni e sarà dimesso oggi dall'ospedale universitario di Stoccolma. E adesso lo sport. Nessun tradimento, nessuna fuga, ma solo il via libera avuto dal presidente Moratti a trattare per diventare un dirigente del Paris Saint-Germain, con cui peraltro non ha ancora firmato il contratto. Così Leonardo ha spiegato in una conferenza stampa a Milano il suo addio a sorpresa alla panchina dell'Inter e la sua trattativa con il club parigino. Loro mi hanno raccontato un progetto e vediamo cosa succede. Che cosa? E loro hanno anche le loro cose, che io non entro. Io che cosa devo raccontare, cosa è successo? E questa situazione ha creato anche in loro una cosa che neanche loro hanno capito. Quindi c'è tutto da spiegarsi. Io non lo so. Mi hanno fatto una proposta adesso in questi giorni, non so quale, non so come. Mi hanno solo detto, vogliamo te con noi. È l'unica cosa che so. Quindi come non lo so, mai parlato di cifre, mai parlato di contratto, mai parlato di niente. Il ciclismo adesso con il Tour de France nel segno della Norvegia. Sono solo due i norvegesi in corsa al Tour de France, ma si fanno notare come se fossero 100. Uno è Thor Hushovd ed è ben riconoscibile non solo perché è il campione del mondo in carica, ma perché da domenica scorsa veste la maglia gialla di leader della classifica. È stata la volta anche di Edvald Boasson-Hagen, 24 anni, al suo primo successo al Tour de France. Due norvegesi che fanno per 100. Hushovd che si gode il suo quinto giorno in giallo e Boasson-Hagen che sogna in grande. Per il resto c'è da segnalare l'ennesima caduta di giornata a soli 4 km dal traguardo, che è costato 1 minuto e 05 alle Vaide Pimer, altro grande favorito in prospettiva vittoria finale. Per quanto riguarda noi italiani, Alessandro Petacchi anche oggi non si è visto. In compenso l'onore italico è stato tenuto alto dal giovane Adriano Malori, 23 anni, campione italiano della crono, che è stato tutto il giorno in fuga. Via il chilometro 6 con altri 4 compagni d'avventura, è stato l'ultimo a farsi riprendere. Per lui la consolazione del numero rosso per il corridore più combattivo. Rosso è però fin qui anche il colore del bilancio azzurro. Ferragusto Stagio, Radio 24, Il Sole 24 Ore, di su. E in chiusura andiamo al cinema. Si conclude con l'ultimo film della saga, uno dei fenomeni più popolari della cultura contemporanea, Harry Potter. 450 milioni di copie con 7 romanzi per bambini e ragazzi, 6,4 miliardi di sterline di profitti, 450 milioni di copie vendute in 70 lingue, ma anche 8 film, 160 paia di occhiali tondi indossati da Daniel Radcliffe sul set, 25.000 costumi e 600 divise scolastiche. Questa prima è un'occasione unica, ha detto il protagonista Daniel Radcliffe, qualcosa di irripetibile come questa straordinaria saga. Sono onorato di averne fatto parte. Il topic, cioè l'argomento Harry Potter, è balzato subito in testa alla messaggistica di Twitter, in tilt alla pagina ufficiale di Facebook, che conta un numero impressionante di adepti, oltre 28 milioni. Il film non è in realtà ancora nemmeno uscito. Il vero debutto in sala è tra il 13 e il 15 luglio. In Italia arriverà mercoledì e anche qui l'attesa è fortissima. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di 24 Ore in Europa. Grazie a Mauro De Angeli in regia, a voi per l'ascolto, un saluto da Roberta Pellegatta. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.